Come noto, nell'ultimo capitolo della Fattoria degli animali di George Orwell, dopo che si vide i maiali camminare sulle due zampe posteriori, ci fu chi volle andare nel granaio a rileggere i comandamenti della nuova vita comune. Con sgomento ci si accorse allora che tutti i comandamenti erano stati cancellati e al loro posto ne campeggiava uno soltanto, quello ricordato testé dall'Oliva. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Questa legge tragicamente autocontraddittoria, che segna la fine della rivoluzione e il ritorno al corso sempiterno delle cose al mondo, tanto da doverne amaramente constatare l'applicazione quotidiana nella percezione della nostra esistenza, questa legge è stata tirata in ballo fin troppe volte, ogni qualvolta qualcuno è sfuggito alla stessa giustizia che invece colpiva inesorabilmente qualcun altro. Nei giorni scorsi l'ha tirata in ballo anche Massimo Moratti nella sua veste di presidente dell'Internazionale Football Club. L'ha tirata in ballo nel tentativo di proteggere una perla dei suoi investimenti pedatori, Ronaldo, che nella partita precedente era stato colto dal guardaline mentre rifilava una gomitata al volto di un avversario. Da lì l'espulsione, la squalifica, le dichiarazioni di chi non ha visto bene cosa è successo, di chi ha guardato altrove e di chi, come il suo allenatore, ha visto benissimo e ha deprecato l'episodio. Dopo le consuete polemiche che contrassegnano la normalità del gioco del calcio nel nostro paese, all'assemblea dei soci del suo club, Moratti ha dichiarato che Fralippi, l'allenatore dell'Inter, Fralippi e Ronaldo c'è grande stima reciproca, che rispettano i propri caratteri a vicenda e sanno perfettamente quanto uno è utile all'altro. Poi, non soddisfatto ancora della chiarezza del suo messaggio, ha fatto ricorso alla propria cultura letteraria. È qui che ha aggiunto che è vero che i giocatori sono tutti uguali, ma Ronaldo è leggermente più uguale degli altri perché ha quel qualcosina per cui si fa amare da tutti. Si tratta di una lezione del modo migliore per condurre una squadra, nella fattispecie una squadra di calcio, una lezione sicuramente sbagliata. Perché se Ronaldo ha quel qualcosina per cui si fa amare da tutti, significa che quel qualcosina non ce l'hanno gli altri e che dunque Ronaldo non è uguale agli altri, ma è diverso dagli altri. Al di là dell'episodio, il caso è emblematico. Uguale e diverso sono due categorie mentali la cui applicazione vale in rapporto ai criteri dichiarati. Due oggetti possono essere uguali per forma e per peso, gli stessi due oggetti possono essere diversi per colore e per il materiale di cui sono costituiti. Se non se ne dichiara i criteri, l'applicazione risponde ad esigenze di tipo ideologico, come l'imporre qualcosa a qualcuno senza neppure spiegarne il perché. L'abuso è antico e sta alla base di tutti gli equivoci sulla democrazia, la cui vitalità non è affatto garantita dall'uguaglianza imposta di principio e ipocritamente a tutti, quanto piuttosto dalla valorizzazione della diversità di ciascuno.